che resta impressa nei miei giorni. Ormai quel viso lo rivedo solo nei miei sogni. Un déjà vu continuo che delinea i suoi contorni. Con due passi qui si spicca il volo, ma io soffro l'altitudine. Quel senso nell'ignoto non la senti l'inquietudine. Quel vuoto nello stomaco che ormai mi porto dentro. Piangere non serve anche se gridi non ti sento. Vorrei dare voce a sentimento per poi scrivere di lettere incertezze. Eri tu che comandavi i nostri cuori. Eri tu che dipingevi la mia casa, davi un colpo ai miei valori. Eri tu che mi parlavi del futuro. Mi dicesti che saremmo stati uniti come un pugno chiuso. Se penso a quelle tue parole come un ragazzino resto illuso. Nello sbaglio puoi trovare la risposta ad ogni tua domanda. Se pensi col cervello non è il cuore che comanda. Vorrei scavare nella sabbia per trovare quel difetto e cancellare quella macchia. Ti sento qui distante, ti scopro quella foto che ha fermato il nostro istante. Eri tutto ciò che mi teneva in piedi. Ti ho rivisto un'espressione gelida dove è nascosta la mia baby. Dov'è finita la dolcezza? Adesso nei miei occhi vedi un fare di tristezza. Pensa a quello che abbiamo perso. Eri tu che mi dicevi non va. Ai tempi cui sognavo insieme a lei. Hai perso la tua fragilità. Eri tu, adesso spiegami chi sei. Che t'abbia dato tutto niente, dimmi cosa resta. Qualcosa che ti scrivo finché questa cosa è fresca. Vivevo nei tuoi sogni, nei tuoi occhi, nelle gesta. Ma mi hai ferito il cuore, quindi fuori dalla testa. E mi dicevi non va. Ma per me chissà. E mi dicevi non va. Forse un tempo da domani si vedrà. Nel cimitero delle mie emozioni. Rivivere il passato per pensare a certe situazioni. Combattere da schiavo in queste storie senza trama né copioni. Rinchiudersi nell'ego sempre più incompreso. Ringraziando il cielo se ne sono uscito illeso. Con la faccia del perdente offeso. Ho dato senza mai ricevere altrettanto. Lasciando perdere passione ed amicizie pur convinto che sbagliavo. Forse il vero errore non è il volere ma cercare amore. Nelle persone che non sanno cosa è puro nel suo nome. Eri tu con quel tuo fare da bambina solo come tu sapevi. Hai saputo maturare quel ragazzo già maturo nei pensieri. Eri tu con quelle tante prime volte insieme. Aprivi quel lucchetto che negli anni avevo messo alle catene. Per quella donna avevo pianto, sofferto. Abbassato fino a quando dagli amici avevo perso del rispetto. Ma tutto questo è stato vano. Adesso siamo fatti per guardarci da lontano. Sei nell'anima il tuo viso come un tatuaggio. Resta incancellabile. Svoltando un'altra pagina ricordo l'indimenticabile. Che mi dicevi non va. Ai tempi cui sognavo insieme a lei. Hai perso la tua fragilità. Eri tu, adesso spiegami chi sei. Che t'abbia dato tutto niente, dimmi cosa resta. Qualcosa che ti scrivo finché questa cosa è fresca. Vivevo nei tuoi sogni, nei tuoi occhi, nelle gesta. Ma mi hai ferito il cuore, quindi fuori dalla testa. E mi dicevi non va. Ma per me chissà. E mi dicevi non va. Forse un tempo da domani si vedrà. Eri tu che mi dicevi non va. Ai tempi cui sognavo insieme a lei. Hai perso la tua fragilità. Eri tu, adesso spiegami chi sei. Svoltando un'altra pagina ricordo l'indimenticabile.